Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i mercati, segnaliamo subito un nuovo record dell'oro, ormai quasi non fa più notizia, ma insomma $1,545 l'oncia, toccato poco fa, 10 minuti fa, nella quotazione di New York. A Londra 1544. Attenzione però, perché giustamente alcuni di voi ci stanno chiedendo da giorni dell'oro. In termini reali, e quindi al netto dell'inflazione, il valore dell'oro però è ben lontano dal record in termini reali del 1980, gennaio del 1980. Infatti, se uniamo l'inflazione, allora l'oro toccò un valore reale che è paragonabile a $2,435 di adesso l'oncia. Siamo a 1545, il record c'è, è un record nominale, diverso il caso del valore reale. Le borse: più 0,20% Milano, invariata Parigi, più 0,44% Francoforte, più invariata Londra. L'America guadagna lo 0,3%, l'euro è sempre forte, sopra quota 1,48 e 40. Bene va Lottomatica, più 2,80%, Buzzi Unice in più 1,5% come Media Sorin, Azimut più 1,23%, Atlantia più 1,1%, Tenaris più 0,90% come Pirelli, lo 0,80% lo guadagna Prismian. Fronte opposto, Luxottica meno 2%, ST Microelectronics meno 1,3%, A2A meno 1%, Ansaldo meno 0,90%, Finmeccanica meno 0,70% come Tods, Popolare di Milano meno 0,40%. Ancora, tra i migliori e peggiori segnaliamo TAS più 10,90% e invece Full Six e Self Therapeutics meno 4,70% tra i peggiori. I temi di questa giornata economico-finanziaria: è stato nominato il nuovo presidente dei giovani imprenditori a una settimana praticamente dall'avvio dell'assise di Bergamo, del mondo della piccola impresa di Confindustria, il che vuol dire il 98%. Delle imprese italiane. Dicevo, Jacopo Morelli è il nuovo presidente dei giovani imprenditori, lo avremo ospite tra poco. Poi il neopresidente, oggi la volta dei neopresidenti, anche se è stato nominato da un mese circa, e mi riferisco al neopresidente di Confagricoltura, per il tema che riguarda il latte, ma anche un settore che spesso trascuriamo ed è colpa nostra, mi riferisco al settore della vivaistica e floreale. Vale 3 miliardi e mezzo, non noccioline, la produzione di fiori e anche l'indotto per quello che riguarda i vivai. A Genova è in corso un'importante fiera europea su questo. Dicevo, per quello che riguarda il mondo dell'agricoltura, parleremo appunto con il neopresidente di Confagricoltura Guidi. E poi in apertura i dati su disoccupazione e inflazione, nel caso specifico quelli italiani. Vi segnalo anche, e poi parto con la notizia in breve, che da questo punto di vista avremo nella seconda ora del programma anche la ospite, un personaggio che a mio avviso è veramente un personaggio, si chiama Oscar Farinetti, ha creato prima Unieuro, poi Italy, e cioè un tempio del Made in Italy di qualità, non solo in Italia ma anche in giro per il mondo, e gli chiederemo come si può difendere il Made in Italy nel settore agroalimentare, anche visto la notizia della settimana, ossia il lancio dell'offerta pubblica di acquisto di Lactalì su Parmalat. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Allora, oltre a l'oro c'è anche il petrolio a $113 a New York, quotazione in lieve rialzo di 19 centesimi per quello che riguarda il petrolio appunto al barile. C'è tra l'altro stata oggi in Italia però la firma di un memorandum, quindi di un accordo preliminare, un accordo di massima, per quello che riguarda il petrolio della Basilicata, della Val d'Agri. Attualmente la Basilicata produce circa 80.900 barili al giorno, però con l'obiettivo di aumentare del 10% dal 2015 in poi la produzione di petrolio, lo Stato e la Regione Basilicata hanno firmato oggi a Potenza appunto un memorandum di intesa che è risultato anche da un lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico e della stessa Regione. La nostra Valeria De Rosa ha intervistato su questo il Presidente della Basilicata, Vito De Filippo. La quantità di petrolio che si può estrarre dalla Basilicata ridurrebbe consistentemente la nostra dipendenza dall'estero e garantirebbe risorse petrolifere all'Italia così importanti fino al 13-14% del fabbisogno nazionale. Ovviamente questa grande opportunità che la Basilicata rappresenta per l'Italia dovrà essere necessariamente anche un'opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio, e il memorandum descrive queste due volontà dello Stato e della Regione a costruire percorsi e accordi per nuovi investimenti infrastrutturali, occupazionali e nel settore della ricerca, sì da consentire ad una regione del Sud anche un rilancio in termini di competitività, di sviluppo e di crescita. Presidente, però per quanto riguarda le cifre, possiamo già definire qual è l'ordine di grandezza economico di questo? Tutto è basato innanzitutto sul nuovo piano industriale dell'ENI, che aumenterebbe anche l'attività produttiva in termini di estrazione in Basilicata. La cifra, diciamo, quanto pesa questo accordo non è prevedibile, ma insomma interventi che riguardano cluster produttivi, innovazione, ricerca, infrastrutture costeranno un po' di soldi, e noi pensiamo che non è molto difficile far capire al nostro paese che sono risorse che si possono ricavare esattamente da questa opportunità, che è quella delle nostre risorse petrolifere. Perché sul giornale si parla di 1,5 miliardi, detto fuori dai denti. È un apprezzamento che fanno alcuni tecnici, alcuni osservatori, che io ovviamente non confermo ma non smentisco, può essere anche quella una cifra, diciamo, possibile. Beh, speriamo in bocca al lupo per l'estrazione in Basilicata di altro petrolio. Volete di nuovo sapere la cifra? Attualmente è di 80.933, per la precisione, barili al giorno. Economia internazionale, anche la Merkel, anche Angela Merkel appoggia Mario Draghi, continua il tormentone. Ieri abbiamo dedicato alla candidatura che è la più forte, parlando anche di quelle che sono le stime dei bookmakers britannici, la candidatura di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Appunto oggi su molti giornali questa indiscrezione è smentita dal portavoce della stessa cancelliera Angela Merkel. È tornato quindi a parlare Stefan Seiber, che ha detto: non c'è niente di nuovo in merito alla posizione tedesca, la Germania fa un po' la preziosa, forse un po' seccata per essere stata superata sulla destra dalla Francia, nella candidatura di Mario Draghi, da altri paesi. È rimasta solo la Germania, non solo tra i grandi, anche tra i piccoli, visto che sia il Lussemburgo che il Belgio che l'Olanda hanno fatto sapere di essere favorevoli a Mario Draghi. Dicevo, è rimasta praticamente anche il Portogallo, anche la Spagna hanno dato il loro appoggio, è rimasta solo la Germania così a farsi un po' desiderare. Nel frattempo il mercato dei credit default swaps finisce nel mirino della Commissione Europea. La Commissione Europea infatti ha deciso di avviare due indagini nei confronti di praticamente tutte le principali banche di investimento internazionale per verificare se siano state violate le regole della concorrenza. Le banche finite nel mirino dell'antitrust europeo sono JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo and Crédit Agricole e la Société Générale. Praticamente tutte. Nel frattempo però Deutsche Bank oggi fa sapere che l'utile è record nei primi tre mesi dell'anno, più 17% a 2 miliardi e 100 milioni di euro. Adesso arriviamo all'inflazione italiana e all'occupazione anche italiana. Prima di tutto devo ricordare il numero per i vostri sms: 349-238-6666. Partiamo con il primo tema, due notizie che riguardano il nostro paese ma anche gli altri paesi europei, appunto inflazione e disoccupazione. Ad aprile è balzata al 2,6% in Italia, è ai massimi di inflazione in Italia dal 2008. Una crescita robusta rispetto al 2,5% di marzo. E praticamente già il tasso acquisito di inflazione per il 2011, quindi se da adesso in poi non vi fosse più variazione sui prezzi al consumo, se non crescessero più i prezzi al consumo, comunque chiuderemmo il 2011 con un'inflazione al 2,2%. E qui nasce la domanda: come mai cresce l'inflazione se i consumi interni sono fermi, anzi sono in calo? Ne abbiamo parlato all'inizio settimana proprio con il responsabile della Confcommercio. In valore reale i consumi sono in calo di circa un 2-2,5% in media. Perché ci sorprendiamo? Perché i consumi interni non ci sono, c'è un po' di inflazione importata, anzi un po' consistente, perché ad aprile la benzina ha fatto più 11% rispetto ad aprile 2010, il gasolio più 19% sempre rispetto all'inizio del 2010. E quello sicuramente pesa, anche se la benzina oggi è 1,58 euro con un petrolio a $112 al barile e un cambio a 1,48 vuol dire 75 euro. La benzina nell'agosto 2008 costava 1,56 euro nonostante il prezzo del petrolio fosse a $140, ossia 93 euro e il cambio era 1,58. Cioè la pagavamo un bel po' di più, so che la vecchia polemica, circa 18 euro di più costava il petrolio al barile, appunto facendo il rapporto di cambio, adesso costa 75 euro, ma la paghiamo uguale, anzi qualcosa di più. Ma al di là della benzina e del petrolio, la cosa sorprendente è che questa inflazione è determinata soprattutto da aumenti di prezzi nei trasporti. Allora, i traghetti, pensate che hanno fatto più 65% i prezzi dei biglietti per i traghetti, ne abbiamo parlato con alcuni responsabili circa 3 settimane fa, rincari del 70% nell'offerta di grandi navi veloci, di Moby Lines, di Sardinia Ferries, tutte per le tratte per il periodo di luglio-agosto, 70% in più rispetto a luglio-agosto del 2010, forse che Tirrenia si sta privatizzando e manca un po' di concorrenza, ma... Più 70% le tratte appunto Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Golfo Aranci. Ancora, una famiglia di 4 persone in questo modo per fare Genova-Porto Torres spenderà oltre 1000 euro, 400 euro in più rispetto a un anno fa, ma dove vogliamo andare? E poi non c'è solo il traghetti, addirittura i traghetti hanno fatto un più 31% mese su mese, complimenti. I pacchetti vacanze, siamo a un 3,6% di aumento mese su mese. Gli affitti di alloggi, 3%, quindi più alti della media dell'inflazione. I treni, più 6% il rincaro dei biglietti dei treni su base annua e più 2,7% mese su mese. E anche gli aerei, più 2,6% su base annua, più 24% mese su mese. Non arriva inflazione sopra la media invece dagli alimentari, più 2,3% l'inflazione dei generi alimentari rispetto a un anno fa, anche se il caffè ha fatto più 8%, il latte più 4%, la verdura più 3,7%, pesce fresco più 4%, frutta più 4,5%. E questo è il dato sull'inflazione. Poi c'è il dato sulla disoccupazione, ed ecco perché saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento chi ne scrive anche sul Sole 24 Ore. Mi riferisco al professor Carlo Della Ringa, che insegna economia politica all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Non le faccio commentare questo rialzo dell'inflazione, anche se è tra le sue materie, o se vuole mi faccio un commento su questa inflazione e poi parliamo anche di occupati e disoccupati. Interessante notare che arrivi dalla benzina e dal petrolio, questo lo sapevamo, ma anche da aumenti tariffari che nulla c'entrano con i consumi interni. Sì, certamente gli aumenti tariffari non c'entrano né con i consumi interni e solo forse in una certa misura l'aumento del combustibile. È che queste tariffe aumentano a intervalli anche molto lunghi, rimangono ferme a lungo, scompresse, si tratta di una inflazione repressa, si dice. Poi in un certo momento hanno bisogno di recuperare e vengono fuori gli aumenti anche nei periodi più disparati e quelli anche contrari a quello che è il buon senso, il senso comune, cioè quando proprio la domanda aggregata è molto bassa. Quindi sono recuperi che, diciamo così, di carattere patologico, soprattutto per i tempi con cui vengono realizzati. Sì, a me sembra che più che l'inflazione repressa sia la rabbia repressa dei consumatori, perché insomma, insomma, in un periodo in cui, come lei ricordava, non c'è domanda aggregata, cioè non ci sono consumi, anzi sono in calo, andare ad aumenti del 60% nei trasporti per la Sardegna, nei treni, addirittura siamo al 3% in più, con un aumento del 6% su base annua, e poi aerei più 2,6 più 24% mensile, ma non porterà bene per i consumi, questo è poco ma sicuro. Veniamo invece agli occupati, perché la disoccupazione in Europa è stabile al 9,9% a marzo, schizza a livello record in Spagna dove tocca il 21,3%, in Italia risale all'8,3% la disoccupazione, che è un dato ancora sotto la media europea. Quello che a noi ha lasciato molto perplessi è che di nuovo a marzo è aumentata la disoccupazione giovanile, cioè tra i 15 e i 24 anni siamo al 28,6%. Professor Dell'Aringa. Questa della disoccupazione giovanile è veramente il nostro tallone d'Achille, perché in generale, appunto, come livello generale della disoccupazione siamo anche sotto la media europea e sotto alcuni paesi che hanno livelli elevatissimi come la Spagna, ma non solo la Spagna. Però per i giovani veramente riusciamo a fare molto poco. Da un lato non c'è dubbio che, avendo salvato i posti di lavoro di molti che sono in cassa integrazione, le aziende appena hanno bisogno di un po' di lavoro in più lo vanno a pescare nella cassa integrazione, quindi si assorbono i lavoratori in cassa integrazione, anche se la stessa cassa integrazione fa fatica a ridursi, però un pochettino si riduce. Quindi chi rimane escluso? Quelli che devono lì aspettare di entrare nel mondo del lavoro e che vedono allungare la fila e i tempi di attesa. E questo è un male non solo perché aumenta il numero dei disoccupati, ma perché aumenta la durata della disoccupazione di questi giovani. E noi sappiamo da tanti studi che se aumenta la durata della disoccupazione poi diventa più difficile poi riadattarsi a un mercato del lavoro più difficile, che richiederà più competenze e che tenderà a discriminare proprio coloro che sono rimasti in attesa così lungo tempo. Eh sì, tra l'altro appunto il 28,6% è una percentuale anche superiore alla media europea. Ancora, come spiega, professor Dell'Aringa, che il tasso di occupazione invece sia salito? Ricordiamo ogni volta la differenza, perché sennò sembrano giochi di parole. La disoccupazione si misura su chi sta cercando lavoro, cioè su chi effettivamente vorrebbe lavorare ma non riesce. L'occupazione prende semplicemente la massa di tutti quelli che potrebbero lavorare e va a vedere chi lavora e chi no. Il dato è diverso perché appunto ci possono essere anche persone che non lavorano ma non lo stanno cercando. Tipicamente nei periodi di rallentamento o recessione tu hai un insieme di categorie, le donne, le categorie più deboli, che escono dal mercato del lavoro e non cercano neanche il lavoro a quel punto. Allora, com'è che aumenta l'occupazione, seppur di poco, al 57,1%? Sì, sembrerebbe contrario all'intuizione, al buon senso. Se aumentano l'occupazione dovrebbero diminuire i disoccupati. Non è così, perché chi entra nell'occupazione molto spesso viene da una posizione di inattività. Pensate che se i disoccupati sono 2 milioni, quelli inattivi, quindi quelli che vengono classificati dall'Istat come quelli che non cercano attivamente il lavoro o perlomeno non l'hanno fatto nell'ultima settimana, sono 12 milioni. E quindi è chiaro che quando aumenta la disponibilità di posti di lavoro, questi vengono occupati anche e soprattutto da quelli che prima erano inattivi, e quindi non si riduce il volume della disoccupazione quando aumenta l'occupazione, proprio perché le imprese pensano al di fuori. Esatto, c'è una riserva enorme di persone che non sono disoccupati. Di cosa fanno? Lavorano nel sommerso, sono scoraggiati. È difficile dirlo, però noi abbiamo un record di inattività come paese, questa sacca di potenziale lavoro che non è nemmeno classificato alla ricerca di lavoro. Sì, magari lavoro nero però Dell'Aringa. Questo è il fatto, molto lavoro nero che magari appunto dal lavoro nero passa al lavoro ufficiale. E magari assistiamo addirittura che in una fase un pochettino di ripresa dell'occupazione aumentano i disoccupati. paradossale questo, ma cosa vuol dire? Che se le cose vanno minimamente meglio, può darsi che coloro che prima magari non cercavano attivamente, sentendo che in giro ci sono delle occasioni, magari si mettono a attivarsi per cercare lavoro. Quindi abbiamo sia un aumento dell'occupazione, sia un aumento di quelli che si mettono a cercare con un po' più di impegno. E allora abbiamo sia un aumento dell'occupazione che un aumento della disoccupazione. Però va bene così, voglio dire, nel senso che la partecipazione al mercato del lavoro aumenta, sia perché c'è più gente che lavora, sia che c'è più gente che cerca attivamente e si spera che prima o poi qualcosa trovi. Un'ultima domanda, professor Della Ringa, su questo, perché si diceva, certo, abbiamo una tale sacca di non occupati, di inoccupati, non di disoccupati, che vai a pescare da lì. A noi risulta però anche che in questo momento nelle aree del paese in cui la ripresa si nota di più, in alcune aree del nord, in alcuni distretti industriali, però l'occupazione che si sta generando è un'occupazione non in cui le imprese vanno ad assumere, ma usano soprattutto società di lavoro interinale, perché ancora non si fidano sulla qualità, la tenuta e l'intensità di questa ripresa economica. Le risulta? Sì, esattamente. Tutte, se va a vedere i bilanci della società di interinale, hanno recuperato gran parte del terreno perduto. Sono fra le aziende maggiormente in espansione in questo periodo nel nostro paese, perché le aziende che hanno ricevuto un po' più di ordini cercano di smaltirli assumendo personale a termine, perché non sono sicuri che la ripresa sia duratura. Però questo va bene, però, perché fra l'altro quei pochi giovani che diciamo così ottengono lavoro spesso lo ottengono attraverso queste missioni che durano 2, 3, 4, 5 mesi, ma che spesso sono l'anticamera anche di un posto stabile. Quindi proprio ormai le fasi di espansione dell'occupazione si caratterizzano in questo modo: aumenta il lavoro temporaneo, sì, in attesa che la ripresa si consolidi, e in quel caso si spera che si consolidino anche le posizioni di lavoro. Mi scusi, professor Della Ringa, ma non avrebbe senso a questo punto sviluppare anche un indice, così come per l'inflazione, visto che parliamo anche di inflazione, c'è un indice dell'inflazione dei beni e maggior consumo, dei beni più frequente acquisto, avere un indice anche del tipo di occupazione che si crea? Voglio dire, sempre meglio che ci sia che non ci sia, però è importante anche sapere se le imprese stanno assumendo interinali di progetto in progetto perché ancora non si fidano, oppure se iniziano a ripartire anche le assunzioni, non dico a tempo indeterminato, ma inizialmente quelle a tempo determinato. Non avrebbe senso, per capire la qualità? Certamente questo sì, però devo dire che quando c'è un po' di ripresa di occupazione aumentano anche le posizioni stabili, perché magari abbiamo imprese che già in passato hanno sperimentato aumento di lavoro temporaneo, stanno vedendo che per loro perlomeno la ripresa è stabile, quindi aumenta anche il tempo indeterminato. Però ha senso certamente, quando si parla di ripresa dell'occupazione bisognerebbe trarre il tipo di occupazione che viene a essere creata, quindi può aver senso avere degli indicatori che tengono questo di questo fenomeno. Come fra l'altro occorre leggere molto bene i dati, per esempio quando parliamo di indicatori che possono anticipare il futuro, ecco, la ripresa del lavoro interinale in tutti i paesi è considerato come un indicatore che anticipa il futuro, quindi il fatto che stia andando bene il lavoro in somministrazione, quello temporaneo, può essere considerato un buon indicatore che in futuro l'occupazione potrà decisamente aumentare anche un po' più di quanto non sia successo in questi mesi. Un indicatore anticipatore, come si chiamano in gergo. Grazie anche per la chiarezza che gli è propria, al professor Carlo Della Ringa, che insegna economia politica all'Università Cattolica di Milano ed è editorialista del Sole 24 Ore proprio sui temi del lavoro. Buonasera. Adesso c'è il meteo e poi c'è la borsa, le borse. Vorrei farvi sentire però, se riusciamo oggi, la dichiarazione di Chiamparino, ma non adesso, lo dico al tecnico energia, dopo la pubblicità, di Chiamparino in quanto presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani su questo tema assurdo dell'apertura dei negozi la domenica, sollevato dal sindaco di Firenze Matteo Renzi, su cui la CGIL si è messa di traverso. No, lo dico perché in un periodo in cui i consumi non partono, magari se qualcuno vuole aprire la domenica, perché no? Questa è la posizione mia personalissima che non conta nulla, però adesso meteo, pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e poi borsa e gli altri temi. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Gli sms che stanno arrivando al 349-238-6666 riguardano soprattutto il tema della domenica, adesso vi arriveremo. Poi la vorrei salutare e soprattutto fare i complimenti al neo presidente dei giovani imprenditori italiani, che prende il posto, quindi eletto oggi, poco fa, un'ora e mezza fa, due ore fa, si è avuta la notizia, che prende il posto di Federica Guidi, ed è il neo presidente Jacopo Morelli. Presidente Morelli, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. 35 anni, giusto? 35 anni, esatto. Ed è di Firenze, mi sembra di capire l'accento. Sì, si dovrebbe capire anche dalla parlata. Poi l'avremo ospite altre volte. Dunque, visto che siamo a una settimana da un altro appuntamento importantissimo per il mondo delle imprese, e cioè le assise di Bergamo, non entreremo su questo. Se ho ben visto, lei prende il posto di una donna, Federica Guidi, appunto, e la prima proposta che ha fatto l'ha fatta per le donne? Guardi, questo paese ha bisogno sicuramente di crescere, le donne sono una risorsa fondamentale, quindi andiamo in quella direzione. E allora ci dica la proposta, perché è uscita un po' come detassare le donne. Come detassare le donne? No, guardi, allora, che innanzitutto non è una proposta... è un periodo in cui si parla di... No, guardi, è una proposta molto semplice, non è neanche particolarmente originale. L'idea è quella di prevedere la possibilità di detassare il reddito delle donne che hanno figli fino a una certa età, oppure che hanno anche a carico dei genitori anziani, in maniera tale di appunto consentirle più opportunità nel mondo del lavoro. Lei sa benissimo che il nostro tasso di occupazione in generale in Italia è più basso della media OCSE, e questo è particolarmente affondato dal basso tasso di occupazione femminile. La proposta che abbiamo fatto noi, tra l'altro, non è particolarmente innovativa, perché l'aveva per esempio tirata fuori anche Alberto Alesina, quindi non è niente di particolarmente nuovo. Però insomma, l'idea è quella di dare delle agevolazioni fiscali alle donne che o durante la carriera lavorativa si debbano occupare dei figli piccoli, oppure di genitori anziani, che non mi sembra assolutamente, sono d'accordo con lei, nulla di rivoluzionario, anzi dovrebbe già esistere. È una cosa di buon senso, come esatto. Molte cose bisognerebbe fare in questo paese. Mi dice altre due cose di buon senso, su cui vi batterete, so che ce ne sono tante, però... Guardi, la prima cosa, sempre visto che oggi è uscito un dato piuttosto preoccupante sulla disoccupazione Ne stavamo parlando adesso con il professor Della Ringa, infatti. Esatto, certo. Allora guardi, anche lì in maniera concreta, dobbiamo, prima cosa... per vincere la disoccupazione e ripartire dalle scuole. Il futuro di un paese inizia dai banchi di scuola, quindi noi dobbiamo avere scuole che formano e preparano, anzi prima ancora che orientano i ragazzi verso un mondo che è più complesso, più veloce, e quindi per metterli nelle condizioni di affrontare le sfide della contemporaneità all'altezza dei tempi, quindi con una cassetta degli attrezzi adeguati. L'altra cosa, quindi anche lì connessa col discorso della scuola, è l'immediata anche lì abolizione del valore legale del titolo di studio. Era qualcosa, mi pare, che 60 anni fa proponeva un nostro presidente emerito della Repubblica, il governatore della Banca d'Italia, che era Luigi Einaudi. Sì. Quindi queste sono cose molto di buon senso. E a costo, zero. Sì, oddio, esatto. La parte fiscale sulle donne non è proprio a costo zero, però insomma. Guardi, se vuole lì basterebbe spostare di poco per liberare delle risorse l'età pensionabile. C'è uno lavora un paio d'anni in più, però almeno negli anni in cui lavora, se è una donna appunto con queste due tipologie, figli piccoli o genitori anziani che deve curare, ha dei vantaggi fiscali. Non ci trovo nulla di strano, anzi. Anche a mio avviso è un'operazione di buon senso. Nell'augurarle in bocca al lupo vorrei capire due cose. La prima, secondo lei quale sarà la sua sfida più difficile, la cosa che teme di più nel suo mandato? E poi le faccio una domanda anche sul primo di maggio. Allora guardi, temere non abbiamo, soprattutto avendo insieme un movimento coeso come quello dei giovani imprenditori, non ci sono cose che temiamo particolarmente. Certamente vogliamo essere all'altezza delle sfide per contribuire a rendere l'Italia un paese più moderno, più libero, più forte ed orgoglioso. Vedo che stanno arrivando dei messaggi al 349-238-6666 che dicono: ma come innovativa, date per scontato che ad accudire i figli e gli anziani siano le donne, possiamo estenderla anche agli uomini nel caso dovessero essere loro a casa con i bambini e i genitori anziani. Iniziamo dalle donne. Anch'io sarei per iniziare, poi casomai facciamo polemica. Questo paese fa la polemica preventiva, vabbè, delle volte. L'altra domanda è il primo di maggio, perché adesso sentiremo cosa ci ha detto Chiamparino in quanto presidente dei sindaci d'Italia. Ma insomma, lei, visto che un suo conregionale come Matteo Renzi ha creato, è vero perché lei è fiorentino, ha creato questo bailam, perché ha detto, ma insomma, il primo di maggio i commercianti che volessero potrebbero anche tenere i negozi aperti, apriti cielo, CGL ha detto come si fa, è la festa del lavoratore, si va a violare un altro principio sulla necessità di riposo, non era un obbligo, era una possibilità. Lei da che parte sta? Sto dalla parte della libertà e quindi della libera scelta. Un paese come il nostro deve poter essere libero di scegliere, quindi se uno anche quel giorno vuole lavorare può contribuire a creare della ricchezza, e lei lo sa benissimo che c'è tanto tanto bisogno di crescita e di creare ricchezza, perché se non si crea ricchezza poi non ce n'è da distribuire per nessuno, neanche per quelli che magari sono rimasti il loro malgrado più indietro. Ma poi tra l'altro, insomma, questa è una cosa strana, perché ci sono intere categorie professionali, i medici, i poliziotti, i paramedici, noi stessi modestamente la domenica siamo aperti, abbiamo le persone che lavorano, cioè non è che, e anche il primo maggio avremo una lunghissima diretta per la beatificazione di Giovanni Paolo II e per il primo maggio con tutti i colleghi in straordinario. C'è chi scrive, ma attenzione, basta che poi il commerciante non mandi al lavoro il suo commesso che paga 800 euro al mese, ma gli darà lo straordinario, perché sennò è illegale, per cui... Ma non c'è dubbio, e poi guardi, meno luoghi comuni e più concretezza, di questo i giovani e il paese hanno drammaticamente bisogno. Sono d'accordo con lei, grazie, in bocca al lupo di nuovo a Jacopo Morelli, neo presidente dei giovani imprenditori italiani. Allora sentiamo che cosa è l'auspicio del di Sergio Chiamparino, sindaco anche lui di centrosinistra, come Matteo Renzi, proposta avanzata a tutti i sindacati, a CGL, CISL, UIL, UGL, Confesercenti, Confcommercio, dopo un incontro di oggi. E il risultato è un appello quello che Chiamparino rivolge. Ascoltiamolo intervistato dal nostro Paolo Piacenza. La cosa importante è che si è concordato di continuare questo lavoro. Adesso noi come ANCI siamo impegnati a far arrivare una bozza di un possibile protocollo d'intesa, delineandone già alcuni punti. Su questa base ovviamente abbiamo anche fatto un appello in quelle città dove si è interrotta il confronto, a cercare di fare in extremis il possibile per recuperare un dialogo in vista anche del primo maggio. I principi sono: uno, che condividiamo il fatto che le città devono essere sempre più città aperte, sia perché sono cambiati gli stili di vita, sia perché il turismo è una risorsa importante, e sia anche perché se no rischiamo di consegnare l'attività di consumo pressoché esclusivamente ai grandi centri commerciali che, sorretti o meno dalla contrattazione, aprono quasi tutte, anzi tutte le festività lungo le autostrade e i centri commerciali. Il secondo principio generale è che ci sono delle feste che per ragioni civili o religiose o altro hanno un valore simbolico molto forte e che in linea di massima devono essere considerate inviolabili, e fra queste il primo maggio. Però concordiamo nel tenere conto che ci possono essere degli eventi non programmabili, oppure anche degli eventi programmabili ma non ripetibili, che possono anche permettere delle deroghe che però vanno contrattate e negoziate a livello locale per circoscriverne l'ambito e definirne le modalità. Se su questa base è possibile tentare anche in quelle realtà dove si è giunti alla rottura, cercare di recuperare. Noi non possiamo obbligare nessuno, Firenze e Milano, perché poi pare che dalle altre parti la situazione sia conosciuta, no? A Torino per esempio un accordo c'era stato che, stante il 150enario, consentiva una deroga eventuale nel centro storico. Insomma, stiamo parlando poi molto di principi più che non di situazioni reali. Così il sindaco Chiamparino, appunto come presidente dell'ANCI. Allora, molti messaggi. Qual è il vantaggio economico dell'abolizione del valore legale del titolo di studio? Beh, in sostanza, scusatemi, si dice che nel momento in cui la laurea in giurisprudenza, in economia, in medicina è uguale che tu l'abbia conseguita in un'università di prestigio o in un'altra, è uguale per il concorso, non riesci a creare vera concorrenza e vera competizione tra gli atenei. Se tu abolissi il valore legale del titolo di studio, varrebbe dove l'hai preso quel titolo, non la laurea come valore legale. Questo è il ragionamento che viene fatto. Sui consumi la domenica c'è chi scrive: attenzione, vabbè, ma se anche restassero aperti i negozi la domenica, i commercianti venderebbero un po' di più la domenica e un po' di meno lunedì. No, non è così. Il consumo funziona in maniera un po' diversa. Non stiamo parlando solo di consumi primari. È chiaro che se uno deve comprare il pane, la carne, la compra per due giorni e non la compra per un terzo giorno inesistente. Però attenzione, perché è dimostrato che laddove i negozi hanno orari flessibili aumentano anche i consumi, perché delle volte non tutti i consumi sono, diciamo, primari e rinunciabili. Ci sono consumi che sono più aleatori, che vengono fatti se hai la possibilità di farli. Se il negozio è chiuso non li fai. E vale anche e soprattutto per i turisti, perché il tema riguardava le città turistiche come Firenze, Venezia, Roma e altro. Il traffico, poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Volete sapere se ci occuperemo del matrimonio di Kate e William? No, questa mi sembra una domanda assolutamente... No, ce ne occupiamo solo perché la borsa di Londra è chiusa per il matrimonio di Kate e William. Questa è la copertura che diamo a Focus Economia. Auguri ai figli maschi e anche femmine, perché tanto in Inghilterra diventi regina. Comunque il traffico... minuti. Allora, Londra chiusa per il matrimonio di Kate e William, le altre borse: Parigi invariata, Francoforte più 0,50, l'America più 0,50 e ancora in Italia più 0,17%. Allora, borsa sia. Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, i titoli oggi, devo dire poco mosso l'intero listino. Luxottica meno 1,81, Ansaldo meno 1,5, ST Microelectronics meno 1,1, A2A meno 1%, bene invece l'automatica più 3%, Buzzi Unigen più 1,5, Diasorin più 1,30, Atlantia più 1,16, Azimut più 1%. Tra l'altro faccio notare come N Green Power anche vada bene, le dichiarazioni del presidente del Green Power, l'assemblea continua a portare bene al titolo. Partiamo allora dall'automatica. Sì, allora l'automatica è stata la migliore del paniere principale, ha beneficiato ancora dei conti pubblicati due giorni fa e del rialzo delle stime per il 2011, e il titolo ha chiuso sopra i 15 euro, soglia superata già ieri e che rappresenta il massimo da ottobre del 2009. Quindi il gruppo, alla luce della trimestrale, ha migliorato le previsioni sui ricavi e sui margini per quest'anno, quindi il giro d'affari è atteso tra 2,8 e 2,9 miliardi e il margine operativo lordo sui 900 milioni, quindi tra 890 e 910. Nei primi tre mesi dell'anno sono... sia i ricavi che il margine operativo lordo hanno registrato un miglioramento di quasi il 30%, mentre è sceso l'utile a 21,9 milioni. Ancora no, sorrido perché su Kate e William stanno arrivando messaggi di qualunque genere. Vabbè, restiamo sulla borsa. Buzzi Unicem più 1,50%. La cosa che oggi ha fatto incuriosire soprattutto riguarda Luxottica meno 1,81, ma ancora pesano dopo la dichiarazione di guerra i timori per un effetto dollaro debole, o sbaglio, Livia, su Luxottica? Sì, no, assolutamente sì. Il titolo oggi ha risentito negativamente appunto della debolezza del dollaro, e questo fattore ha portato anche alcuni esperti ad aggiornare le stime, però restano comunque positivi i target per il secondo trimestre, le attese sono buone grazie soprattutto alla performance del retail negli Stati Uniti, nonostante il dollaro debole. Ecco, no, dicevo, quello che è un po' sorpreso è Finmeccanica, nel senso che l'utile ieri dei primi tre mesi è precipitato, meno 90% a soli 7 milioni di euro. Il titolo però, adesso lo dico, non è che vogliamo che perda, ma insomma ha perso pochino, meno 0,55%, ieri il 2%, con un 90% in meno di utile. Qualche spiegazione, Livia? Ma in realtà stamattina il titolo perdeva di più, sì, non ha risentito in maniera in linea con il calo dell'utile appunto da 91 a 7 milioni, però gli operatori di mercato e gli esperti sono concordi nel dire che nonostante il calo realizzato nel primo trimestre, gli obiettivi per il 2011 restano comunque raggiungibili, perché tipicamente il primo trimestre è quello meno importante rispetto agli altri nel corso dell'anno, quindi comunque le attese restano quelle precedenti. Allora, nel frattempo c'è un ascoltatore che ci scrive che la regione Sardegna sta mettendo a disposizione 3 traghetti per combattere il caro traghetto. Ci abbiamo aperto, uno dei motivi per cui l'inflazione sale, non unico per carità, più 60% le tariffe dei traghetti verso la Sardegna. Mi auguro che magari sentiamo anche lunedì il presidente della regione Sardegna su questo. Livia, tu andrai in Sardegna col traghetto? Dovessi andare in Sardegna, probabilmente sì. Occhio, perché sono il 60% in più, da 600 a 1000 euro. Torniamo ai titoli. Parmalat si sta avvicinando al livello dell'OPA o no? Allora, oggi la notizia di oggi è che i francesi di Lactalis hanno depositato alla Consob appunto il prospetto relativo all'offerta pubblica di acquisto. Allora, il titolo oggi ha chiuso a 2,556 euro, calcoliamo che l'OPA a 2,6 euro, quindi sostanzialmente sì, oggi comunque ha chiuso con un rialzo dello 0,63%. E per cui lentamente, con un po' di margine, ma lentamente stiamo arrivando lì. Ancora, tra chi oggi ha perso, anche Ansaldo STS -1,5, ma ieri aveva guadagnato, Steam Microelectronics -1,1. Andiamo sui migliori e peggiori. Dunque, TAS più 10,90, Unione Alberghi Italiani più 9,90, Cogeme più 7,22%. Che è successo a Cogeme? Allora, la società oggi ha comunicato di aver individuato alcuni partner, sia industriali sia finanziari, interessati a valutare potenziali sinergie con il gruppo, quindi il titolo in sostanza ha beneficiato di questo. La società sta studiando un progetto industriale che verrà poi sottoposto al consiglio di amministrazione, e il management inoltre di Cogeme ha dichiarato che il business di riferimento della divisione auto sta registrando buone performance a livello globale, performance che quindi influiranno positivamente sul gruppo. Sempre secondo il management. Sulle generali oggi a Trieste riunite, ma insomma, il titolo mi sembrava essere poco mosso alla fine. Sì, allora il titolo ha chiuso con un rialzo dello 0,31%, quindi sì, poco mosso. Londra? Allora, Londra oggi è chiusa per festività, brava, come brava, giustamente brava, hai ricordato brava, tu, e sarà chiusa anche lunedì. E sarà chiusa anche lunedì? Sì. Ah, questo non lo sapevo. Sempre per il matrimonio di Kate e William? Per il Bank Holiday lunedì. Ah, ecco, perché sennò alla faccia della produttività britannica. Beh, quindi Bank Holiday lunedì, e poi visto venerdì e lunedì, una seconda Pasqua si fanno i mercati finanziari inglesi. Grazie, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Cori sulle 24 ore. Grazie a Livia Zancaner. Grazie anche a voi, buonasera. Allora, non ce la facciamo a intervistare il presidente del Confagricoltura, che ci scuserà, lo intervisteremo lunedì prossimo, e prometto che affronteremo anche il tema di come si difende il latte italiano, l'agricoltura italiana, oltre che il settore dei fiori. Che bello il settore dei fiori. Adesso c'è il GR, però dopo parleremo di latte, di difesa del Made in Italy, con chi ha creato un gioiello mondiale, si chiama Italy, è un tempio di tutti i prodotti del Made in Italy alimentare a maggior valore, le nicchie, ha aperto 15.000 metri quadri a New York, ha aperto in Giappone, Oscar Farinetti, quello che creò Unieuro. E vorremmo capire un po' di cose con lui. Dopo il GR, 349-238-6666 per gli SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, e dicevo, parliamo anche di come si vuole cambiare l'Italia. Adesso non possiamo più parlare di borsa, dico a chi si fosse appena messo in collegamento che oggi le borse sono tutte poco mosse, più 0,17% Milano, l'euro è quota 1,4822, nuovo record dell'oro, e petrolio sempre è molto forte, il miglior titolo l'automatica più 3%, il peggior titolo Luxottica -1,81%, tra quelle maggiore capitalizzazione. Allora, come promesso, parliamo dell'industria agroalimentare italiana, dopo la notizia della settimana, l'offerta pubblica, la scalata di Lactalis a Parmalat, e come si possa difendere il nostro Made in Italy senza passare necessariamente per leggi salva Parmalat o contro l'arrivo di capitali stranieri, anche perché a poco sono servite. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il panno. Voi direte: che cosa c'entra Bruno Lauzi e Onda su Onda con questo tema? Ve lo spiego subito, perché siamo in collegamento con Oscar Farinetti, che per chi non lo sapesse è, dopo essere stato il fondatore di Unieuro, è stato il creatore di Italy, che è quella catena che ormai hanno 7 negozi, ne hanno appena inaugurato uno lo scorso 25 aprile a Genova. Catena di prodotti di altissima qualità italiana, spesso certificati da Slow Food. Farinetti, buonasera. Buonasera, sentirete un po' di rumore di vento, siamo in mezzo al mare, però va bene. Ecco perché abbiamo messo Onda su Onda, perché lei nel frattempo, dopo aver inaugurato il negozio di Genova e arriveremo anche a aver aperto nel 2010 un enorme centro di prodotti agroalimentari italiani a New York, 7000 metri quadri, 20 chef, 400 dipendenti, 600 posti a sedere, 8 ristoranti monotematici, sì, tra Fifth Avenue e Broadway. Lei in questo momento è in barca. Allora, in barca, devo dirle che nel frattempo i dipendenti, che sono collaboratori, non dipendono, sono diventati 558 a New York. Perché New York funziona alla grande, sì, molto bene. 20.000 ingressi al giorno, andiamo bene. 20.000 ingressi al giorno di newyorkesi che vengono a mangiare italiano. Di newyorkesi e di cittadini di tutto il mondo. Perché Manhattan fa 47 milioni di turisti, quindi arriva tutto il mondo, ma la cosa più bella è che arrivano gli italiani, i turisti, e ci ringraziano e dicono grazie che facciamo fare bella figura all'Italia. L'Italia ha bisogno di fare bella figura nel mondo. Ah beh, su questo c'è un deficit negli ultimi mesi e nell'ultimo anno apocalittico. Ma veniamo a noi, lei è in barca, sì, non l'abbiamo disturbata in barca per altro, poi veniamo a come si promuove il Made in Italy e l'agroalimentare di qualità non contraffatto, facendo capire la differenza tra il parmesan e il parmigiano, tra la mozzarella e il mozzarillo e via così. Ma lei perché in barca? Sono in barca perché dovevo fare le vacanze prima. Ecco questo. Siccome volevo farmi 30 giorni di vacanza, perché 2 anni che non le faccio, per fare 30 giorni ci siamo inventati un qualcosa che fosse magari un pelo utile al nostro paese. È arrivato il momento, secondo noi, che anche noi laici, cioè noi che non facciamo la politica attiva, possiamo dire qualcosa per il nostro paese, senza far polemiche, senza parlare contro, senza perdere tempo di chi sono le colpe, ma incominciare a ragionare in modo proattivo su che cosa faremmo. Quindi abbiamo intitolato questo viaggio 7 mosse per l'Italia. Cercheremo, e ci proviamo almeno, di individuare 7 mosse utili a mettere di nuovo in riga il nostro paese. La ciurma da chi è composta? Perché c'è di tutto qua, è un casino. Siamo in 10, stiamo navigando tra Palma e Gibilterra, c'è il grande Soldini che comanda e guida la nave, bravissimo, c'è la sua seconda che si chiama Beatrice, molto brava, una donna che sa portare la nave come nessuno, ma poi c'è un gruppo di amici, c'è Antonio Scurati, c'è Matteo Marzotto, c'è un sacco di gente bella con noi. Sì, ma questa Italia, se ho ben capito, la volete cambiare, cioè cambierete anche i passeggeri della nave per discutere di 7 mosse. 7 mosse su che, Farinetti? 7 mosse sul nostro paese, dico solo, la prima si intitola Meno politici, più politica, e si occupa della riforma della politica. Secondo noi, a vederli da casa, è arrivato un momento che dobbiamo mettere i migliori al comando del nostro paese. Ce n'è già qualcuno, non è che siano tutti dei mediocri. Intendersi per mediocre colui che di fronte ad un problema la prima cosa che pensa è: che figura farò io, come ne uscirò io. Siamo qua che in questo momento stiamo parlando di agricoltura, dell'agroalimentare, e ci domandiamo perché il nostro paese ha cambiato 3 ministri in 12 mesi. Quindi analizzandolo dall'alto uno direbbe: che bravi questi italiani, scelgono sempre uno più bravo, sarà così. Adesso, siccome li abbiamo avuti ospiti tutti e tre, con massimo rispetto, però il motivo per cui Zai ha lasciato il posto a Galan e Galan a Romano è un motivo di rimpasto elettorale. Zai perché ha scelto di diventare governatore del Veneto, lì va detto. Però il passaggio Galan Romano, e poi vedremo perché è un passaggio, diciamo, che si lega molto di più ai cosiddetti responsabili che non a scelte di competenza. Ma andiamo avanti. Il primo è la riforma delle politiche, le altre sei mosse? Le altre mosse, ce n'è una importantissima dedicata alle vocazioni del nostro paese. Abbiamo individuato sei vocazioni forti del nostro paese, che sono l'agroalimentare, sono il turismo, sono il design e la moda, sono la cultura, i beni culturali e tutte le attività culturali in genere, teatro, musica, cinema, eccetera. Sono la logistica, essendo l'Italia che può diventare il porto d'Europa migliore che c'è, e l'industria manifatturiera, dove siamo leader. Bisogna andare a mettere i nostri uomini migliori in ognuno di questi campi e investire su questi campi. Abbiamo la possibilità di creare una marea di posti di lavoro. Prima parlavamo che Manhattan fa 47 milioni e mezzo di turisti. Sa quanti ne fa Roma? Ne fa 10 milioni e mezzo di stranieri, arrivano a 22 con gli italiani, ma a Manhattan non c'è la Cappella Sistina, i Musei Vaticani, il Colosseo, eccetera. Possiamo raddoppiare il flusso turistico in Italia, raddoppiare gli ingressi e raddoppiare i posti di lavoro. Oh. Basta metterci le persone giuste. Oh, per chi non lo sapesse, Farinetti è quello che ha ideato, quando era proprietario di Unieuro, quello spot, a mio avviso, bellissimo, con il poeta Tonino Guerra, che diceva: l'ottimismo è il sale della vita. Benvenuti. Si chiamava Benvenuti nell'era dell'ottimismo. Ecco, si è ricreduto dopo? No, il problema è che il titolo dell'era attuale io la chiamerei Benvenuti nell'era del pensiero sbrigativo. Giudichiamo tutto rapidamente, non approfondiamo nulla. Siamo un paese che ha bisogno di fermarsi un attimo a riflettere. Voi più che fermarvi attraversate l'oceano perché arriverete a New York. Dicevo, oltre ai temi che lei ricordava, la riduzione della spesa, l'Italia nel mondo, l'integrazione, la giustizia e l'ambiente. E leggo io gli ospiti così le do una mano. Oltre a quelli che lei citava, vi sarà Alessandro Baricco, Riccardo Illy, Lella Costa, Giorgio Faletti, Pier Giorgio Di Freddi, Simone Perotti, che è quello del downshifting, qualcuno se lo ricorda, abbiamo avuto ospite una settimana fa. Allora vedo già i messaggi, ecco, un gruppo di ricchi, di gauche caviar che viaggia in barca per l'Atlantico a discettare di temi mentre noi siamo qua a lavorare. No, in realtà, adesso poi magari mi danno anche una risposta dopo il traffico, Farinetti, in realtà lei il business l'ha fatto e continua a farlo, di questo vorrei poi parlare concretamente con lei, augurandole intanto anche buon viaggio e buona vela, se non ricordo male si dice così. Vorrei parlare di come si difendono i prodotti agroalimentari. Voi avete fatto un'operazione importantissima a New York, ma anche in Italia, perché i prodotti che vendete sono di altissima qualità, un po' cari, ma di alta qualità, permettendo ai piccoli produttori dell'agroalimentare di lavorare e di vendere prodotti di qualità senza dover andare necessariamente a contrattare con le grandi catene. Dopo il traffico mi racconta come si difende Made in Italy e risponde anche alle critiche di chi al 349-238-6666 dice: siete un salotto sul mare, sostanzialmente. Dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Intanto sono stato invaso da una valanga di insulti per aver detto buona vela e non buon vento. E qui si capisce la mia ignoranza profonda sul mondo della vela. Buon vento volevamo dire, lo ridiremo dopo. Torniamo a ragionare però di seriamente, anche se con un po' di allegria ogni tanto, venerdì. Però di come si promuove il Made in Italy senza bisogno di leggi anti o salva Parmalat o salva altre cose. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il pane, onda su onda in mare. Oscar Farinetti, prima di spiegarci le sue ricette, visto che Italy è un modello su questo, mi deve rispondere però dal mare Mediterraneo dove si trova, all'accusa che state facendo un salotto, di quei salotti così, un po' da ricchi, in mezzo al mare, ma sempre salotto, Non rispondo, hanno ragione, io accetto le critiche, guarda, sono in una fase della mia vita in cui adoro le critiche e non rispondo con altre critiche, perché a forza di guardare solo la parte negativa di una cosa stiamo andando al collasso, dobbiamo smetterla tutti e cercare di guardare la parte positiva. Quindi accetto la critica, la parte negativa è vera, è quella, ci vergogniamo anche un po', mentre un sacco di gente fa fatica a vivere, e anche per questo ci siamo razionati. Lo sa che non mangiamo più di 4,50 € al giorno a testa, colazione, pranzo. Non le crederò mai. Glielo giuro, e vedrà, 1.600 € per alimentarci tutti, 37 giorni, 370 persone che devono mangiare. Occhio al cannibalismo, Farinetti. Lo sa che siamo su una barca vecchia di 38 anni, tutta di legno, tutta analogica, Soldini si sta facendo un culo così. Beh no, quest'ora non mi dica così. Le vele. Però hanno ragione, mi scuso con queste persone, tuttavia prendete la piccola parte bella del nostro viaggio, cioè quella di dire qualcosa di positivo per il nostro paese, e poi se volete continuare a criticare non posso farci niente, io dedico il tempo invece a guardare la parte bella di ciascuno. Lei è un mito, Farinetti, nel senso che tutte le volte che muoviamo qualche domanda, nemmeno critica, ai politici, anche a certi imprenditori, tutti a pensare un attacco di qua, un attacco di là, non parliamo poi del governo, almeno lei dice la critica è vera, è giusta, avete ragione, vado avanti. Un mito, perlomeno nel panorama così, di chi in questo momento, questo è un paese in cui si può sempre far meno domande, sempre far meno critiche, perché subito è un attacco politico, dietrologico. Se te, no, non è normale, nei paesi anglosassoni i giornalisti fanno le domande e i politici o i manager rispondono alle domande senza vedere sempre complotti. Chiudo questo inciso che non c'entra nulla e mi dica invece come si difende il Made in Italy, visto che voi lo state facendo promuovendo gli altri negozi, sono a Torino, Milano, Pinerolo, Bologna, ad Asti e in Giappone, poi c'è quello di New York e avete inaugurato lo scorso 25 aprile, lunedì scorso, quello di Genova. Come si difende il Made in Italy? Siccome abbiamo poco tempo, le dico una ricetta unica, che però è la più importante: meno burocrazia, basta leggi, fermiamoci un attimo. Quello che sta ammazzando la distribuzione del Made in Italy bene, la burocrazia micidiale che abbiamo, è un casino. Vuole che le faccia un esempio terribile? Volentieri. È stata fatta una legge per cui il prosciutto di Parma e San Daniele non si può preaffettare nei punti vendita, bisogna comprarlo preaffettato nella zona d'origine. Allora lei pensi come si fa a preaffettare il prosciutto nella zona d'origine? Si spolpa, si congela, si preaffetta congelato, almeno siamo sicuri che quella roba che si chiama Parma e San Daniele non è buono, ma è Parma e San Daniele, perché non ci si fida di noi. Perché la burocrazia parte dalla mancanza di fiducia, invece dobbiamo arrivare a dare fiducia. L'unico modo per riprenderci è ridare spirito di impresa agli italiani bravi. C'è un sacco di italiani che hanno voglia di lavorare. Lo sai che per fare un'etichetta di vino rischi sempre di andare in galera, perché la fai sempre sbagliata, perché abbiamo 10 enti diversi che ci controllano. Lei si mette nei panni di un giapponese, se capisce DOC, DOCG, IGP, IGT, non capisce un tubo di niente, mentre sui vini australiani, sui vini cileni c'è scritto gli ingredienti. Lo sa che se su un vino DOC fatto di uve miste italiane non si può dire quali sono gli ingredienti? Su un Languedoc lei non può dire che è fatto di Dolcetto, di Barbera, di Nebbiolo. Ti becchi la multa. La burocrazia italiana sta distruggendo questo paese. La prima operazione da fare è prendere tutte le leggi sull'agroalimentare italiane, che saranno 52 volumi, e farlo diventare un volume molto semplice. Poi chi sbaglia va in galera, veramente, ma bisogna mandarlo. Ma fermiamoci con la burocrazia. Io invece ho paura che i legislatori attuali rispondano a questa difficoltà, caso Parma, eccetera, con altre nuove leggi, leggine, dove non si capisce più niente. Quindi fuori dalle palle la burocrazia. E il discorso è chiarissimo, lei sta parlando con un linguaggio quasi da mozzo, Farinetti, non da proprietario di titoli. Però su questo poi arriviamo alla contraffazione, che vale, si calcola, circa 51 miliardi di euro. Attenzione, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, l'industria alimentare è la seconda industria del paese dopo la meccanica, 120 miliardi di fatturato, di cui 20 destinati all'export e quasi 400 mila addetti per 6.300 imprese, questo per dare le dimensioni. Visto che però Lactalis ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sul Parmalat e vuole comprarsi, e ci riuscirà probabilmente, il latte italiano, come difendiamo noi la nostra filiera del latte? Ma guardi, intanto la prima cosa per difendere il latte italiano bisogna migliorare la qualità e pagarlo di più agli allevatori. Come fai a difendere il latte italiano se lo paghi meno di 40 euro, meno di 0,40, 37 all'allevatore, e poi si vende da 1 euro a 1,50 euro al pubblico? Bisogna pagare meglio l'allevatore e chiedere un latte di qualità. Guardi, noi a Genova abbiamo proprio, che l'ho lasciata la settimana scorsa, inaugurato una nuova gelateria dove facciamo latte con la vacca piemontese, straordinaria, di pasta. Non dentro la gelateria la vacca, spero, no? No, non c'è, c'è una bella immagine sua, quindi sembra quasi di vederla. Si chiama Nina, anche il cartellino con il nome appeso all'orecchio, c'è una bellissima sua immagine, facciamo il gelato con il suo latte che paghiamo 1 euro al litro all'allevatore, ci stiamo dentro benissimo. Guardi, bisogna ripartire un attimo da zero, e le ripeto la ricetta più semplice di un imprenditore. Quando noi che facciamo impresa abbiamo un reparto che non funziona bene, sa cosa facciamo? Cambiamo il capo di quel reparto e andiamo a mettere il migliore. Non dobbiamo far altro che fare la cosa più semplice del mondo: mettere i migliori a capo di ogni settore. Lo sa che per imparare qualcosa sull'agroalimentare ci vanno anni, anni, anni, da Bruxelles all'Italia, eccetera. Io che dal 2003 che me ne occupo a tempo pieno, le giuro che sono ancora un ignorante. Quindi il ministro dell'agricoltura deve essere il più bravo che abbiamo in Italia in quel campo, che conosce bene la situazione. I miei ascoltatori vorrebbero che fosse lei, Farinetti, però no, mi sembra impegnato. Grado, allora, capace. E come si difende? Politica devono farlo i politici. E come si difende il Made in Italy dalla contraffazione? Il parmesano in Brasile, il reggianito in Argentina, il pamasello in Belgio, la certo, pasta milanese in Portogallo, la palenta, sì, in Croazia, l'olio intanto pompeiani negli Stati Uniti, e ha fatto solo i primi, certo, nomi. Prego. Intanto godiamone un attimo. Ovidio diceva: non è felice l'uomo che nessuno invidia, e questo vale anche per i prodotti alimentari. Il fatto che ci copiano vuol dire che facciamo cose buone e che piace. Intanto, prima di tutto, godiamone. Poi pensiamo come vendere di più i nostri prodotti attraverso... Noi come Italy abbiamo inventato la tecnica più semplice del mondo, attraverso la didattica, la conoscenza. Bisogna raccontarlo alla gente. Bisogna andare a fare le promozioni dove c'è la gente comune e spiegargli qual è la differenza tra un parmesan e un parmigiano reggiano, qual è la differenza tra un culattello di zibello fatto a Soragna nei mesi d'inverno, solo con le nebbie, il risultato straordinario che ne esce, questo profumo di castagno straordinario. Quindi dobbiamo andare a fare didattica, bisogna dedicare del denaro, delle promozioni su cose serie, e non sempre come al solito a dar da mangiare, da bere ai diplomatici e ai soliti che mangiano gratis nel mondo, ma facciamo delle promozioni sulla gente comune. Noi lo stiamo facendo a New York e abbiamo un successo straordinario. Tutti i nostri prodotti sono raccontati, spiegati, e spiegati perché nascono così. Noi andiamo a spiegare il marino, il vento del mare, andiamo a spiegare che i nostri prosciutti sono straordinari in Friuli perché la brezza dell'Adriatico si unisce all'aria fresca delle Dolomiti e si crea un microclima che è unico nel mondo. Queste cose, oltre a essere didattica, creano un'emozione, una memoria, e che rimane nella testa della gente, e poi acquista i nostri prodotti. Certo. Questo bisogna fare. Farinetti, qui al 348 stanno arrivando un insieme di messaggi di gente che vuole andare in barca con lei. Il problema vero, mi sembra, però, che la vostra barca torni in Italia, non che gli italiani si trasferiscano sulla vostra barca. Per cui tornate, continuate e continui lei a promuovere il Made in Italy in giro per il mondo, e buon vento, così dico bene, a lei, a Giovanni Soldini, a tutti quelli che parteciperanno a questa... Posso dirle una, sì, cosa importante alla fine? Prego. Abbiamo fatto un sito che si chiama www.settemosse.it, sette scritte col numero, e chiediamo agli italiani di darci la loro idea, di scrivere le loro mosse, www.settemosse.it, e così almeno il nostro documento non sarà fatto da questi 10 fighetti in mezzo al mare, ma saranno fatti anche dalla gente per bene a casa, che non può permettersi queste cose. Non vediamo l'ora di riceverle. Buon vento a tutti voi, grazie a Oscar Farinetti, fondatore e proprietario di Italy. Ciao Italia. Oh, un po' di ottimismo questo venerdì in chiusura, vedo moltissimi messaggi, ma Farinetti, ci vorrebbero più persone così in questo paese. Mentre è uscito poco fa il Wall Street Journal, anche secondo il Wall Street Journal, per Mario Draghi sarebbe fatta alla presidenza della Banca Centrale Europea, ci sarà anche il via libera di Angela Merkel, allora con Farinetti e Draghi mi sembra che chiudiamo bene. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Un buon fine settimana a voi se non lavorate. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.